2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 22 maggio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è molto semplice, 2024, scritto in cifra, quindi 2024 e radio24.it. Come sempre vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile in versione digitale, quindi il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile entro al massimo un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi ci trovate entro al massimo, ma solitamente i nostri tecnici sono molto veloci, dicevo alle 18.30 del sabato, quindi dopo la nostra trasmissione. E come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it oppure potete inviarci una email. Tra poco parleremo di protezione dei dati personali, di crittografia, ma come sempre prima del nostro approfondimento alcune fra le notizie più interessanti della settimana. Tornano a crescere in Italia le vendite online. Secondo i dati pubblicati martedì dall'osservatorio e-commerce Netcom School of Management del Politecnico di Milano, l'e-commerce cresce del 16% nel primo trimestre 2010, dopo un calo del 2% registrato nel 2009. Oltre la metà delle vendite online riguarda il turismo. Tornano a crescere in tutto il mondo anche le vendite dei telefoni cellulari, che nel primo trimestre hanno sfiorato i 315 milioni, con una crescita del 17% rispetto all'anno scorso. Secondo i dati della società di analisi Gartner, di questi quasi 49 milioni sono smartphone, una quota ancora minoritaria ma che cresce del 48%. Nokia mantiene la leadership con una quota mondiale del 35%, in calo di circa un punto. Samsung consolida la seconda posizione con un 20%. Seguono a distanza LG con l'8,6% e con quote attorno al 3%, RIM, Sony Ericsson e Motorola. Apple sale al 2,7%. Diverse le cose se si guarda al solo mercato degli smartphone, dove ancora Nokia guida la classifica con il sistema operativo Symbian al 44%, seguito dal software che fa girare i BlackBerry al 19%. Apple è terza con un 15%, mentre Android è in forte salita e raggiunge quasi il 10% del mercato. Ed ora il primo dei nostri ospiti in questa puntata di 2024, che introduciamo con una domanda, una serie di domande. Quando parliamo al telefono o inviamo un'email, possiamo essere certi che la nostra conversazione sia sicura, oppure che nessuno, ad esempio, legga il messaggio che abbiamo scritto o che riceviamo da un collega, un amico oppure un cliente? E attenzione, non stiamo parlando delle intercettazioni di cui si parla tanto. Esistono metodi alla portata di molti per intercettare le nostre comunicazioni ed esistono naturalmente dei metodi per comunicare in modo sicuro. Naturalmente stiamo parlando di conversazioni che devono essere molto sicure, quindi conversazioni importanti, magari non la chiacchierata che facciamo con l'amico nel weekend, ma queste conversazioni sono molto frequenti nel mondo del lavoro o in altri ambiti. Saluto Carlo Marchini, che è amministratore delegato di CAMSA Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi siete un'azienda specializzata in crittografia, quindi nella protezione dei messaggi vocali, di telefonate anche. Quindi di fatto siete un'azienda di ingegneri che hanno ideato e progettato che cosa? Algoritmi? Sistemi di protezione di che tipo? Esattamente. Dunque, CAMSA è un'azienda italiana, è un'azienda direi piccola, siamo una quindicina di persone, e tieni conto che la maggior parte, direi l'80%, sono ingegneri o laureati in informatica, quindi sviluppatori con forti competenze tecniche che si occupano di sviluppare sistemi per la crittografia dell'informazione. Ciò vuol dire crittografia delle mail, ma anche e soprattutto in questo momento crittografia delle telefonate mobile. Noi parliamo molto spesso di applicazione, questo è un tema di cui si parla molto. Anche voi, potremmo dire, siete entrati nel settore, nel mercato delle applicazioni. Per

posso invitare te, a te arriva un sms in cui c'è scritto: guarda che Carlo vuole avviare una telefonata criptata, accetti, scarica questo software in versione receive only. Ciò vuol dire che a livello che in maniera totalmente gratuita tu per sempre potrai ricevere telefonate criptate, per farne dovrai anche acquistare il software. Certo, okay. Quindi il vantaggio in questo caso è, come tu dicevi, non avere un prodotto blindato, perché esistono dei telefoni che ti permettono di crittografare le telefonate. Devo acquistare però almeno una coppia di telefoni e non posso fare quello che tu mi dicevi, cioè chiamare chiunque. Esatto, questo ci permette chiaramente di avere una certa viralità sul mercato, no? Certo. Perché a quel punto io posso creare, chiamiamola, una rete sociale sicura, nel senso che io posso invitare le persone con cui ho a che fare, se ad esempio sono un medico, con i miei clienti da una parte e altri medici dall'altra, creare una rete sociale sicura per cui io posso chiamare tutti. Sì. Quanto costa? Allora, sul mercato professionisti ha un costo simile, anzi uguale a quello della mail, quindi 400 euro all'anno. Abbiamo anche la possibilità di acquistare una licenza mensile a 45 euro. Di conseguenza sta l'utente finale a decidere se acquistarlo per un mese o per provarlo, per un anno. Esatto. Di fatto poi il sistema cos'è? Automatico, quindi io non mi accorgo nemmeno di nulla. No, come ti dicevo, è molto semplice lato utente. Perché sì, dico io per quanto riguarda la mia esperienza di telefonata. Esatto, perché è molto semplice lato utilizzatore, e quindi abbiamo deciso, e siamo gli unici da questo punto di vista, di rendere la telefonata sicura esattamente uguale a quella normale. Ciò vuol dire che tu semplicemente anteporrai al numero che devi chiamare un codice, che nel nostro caso è +801, un codice internazionale non allocato, e potrai salvarlo sulla tua rubrica. Quindi tu potrai salvare Carlo con il mio numero di telefono, Carlo sicuro +801 il mio numero di telefono. Cliccando su Carlo sicuro, quindi dalla rubrica esattamente come faccio con una telefonata normale, e pigiando, schiacciando il tasto verde, avvierai una chiamata criptata nei miei confronti. Pago una tariffa diversa? Allora, abbiamo due versioni del software, una versione che è già in vendita, un'altra che abbiamo appena sviluppato ed è in beta. Quella già in vendita funziona sul cosiddetto canale fax dati che la maggior parte degli operatori dà, e quindi ha un costo di telefonate esattamente uguale a quello delle telefonate normali. Chiaramente noi siamo un'azienda, diciamo, innovativa, quindi cerchiamo di fare prodotti che ci aspettiamo possano avere successo anche a medio termine, e quindi abbiamo sviluppato, ed è praticamente pronto, il prodotto Private GSM in VoIP, cioè in Voice over IP. Sì. Voice over IP ha tutta una serie di vantaggi, quindi addirittura è molto più veloce la chiamata, più fluida, è molto più semplice chiamare e quant'altro. Chiaramente vado sul canale internet, quindi ho dei costi di connessione. Comunque stiamo parlando veramente di pochissimo traffico, perché per fare una telefonata criptata parliamo, adesso non vorrei scendere troppo nel tecnico, di circa 100k a minuto. Quindi vuol dire che è veramente pochissimo il traffico necessario, e di conseguenza la spesa necessaria per fare una chiamata. Sì. Senti, anche in questo caso vorrei farti una domanda, come nel caso della email: chi può intercettare una telefonata, al di là di quelle che vengono ordinate dal giudice, quindi vengono di fatto eseguite tramite le infrastrutture degli operatori? In altro caso? Allora, anche qui ci sono, magari ti parlo dei due estremi, la metodologia, il metodo più semplice in assoluto e quello più complesso e complicato, più raffinato in assoluto. Dunque, quello più semplice è l'accesso fisico al cellulare. Quindi se tu ad esempio adesso ti muovi da questo studio e lasci il cellulare sul tavolo, io potrei banalmente collegarmi con il tuo browser a un sito che permette di scaricare sul tuo cellulare un softwareino, tu non te ne accorgi. Da quel momento, tutte le volte che tu chiami qualcuno, metti in conference call me, quindi io sarò sempre in ascolto sulle tue chiamate. Quindi come fosse un virus che tu installi nel mio computer, lui sniffa tutto quello che io... Esattamente. Questo, diciamo, è il metodo più semplice e per certi versi più difficoltoso, perché devo avere accesso fisico al tuo cellulare. Sì. Si arriva poi dall'altra parte a sistemi molto più complessi ed efficienti, in cui io riesco a tutti gli effetti a simulare la cella a cui tu ti stai collegando e a riuscire a intercettare il tuo traffico telefonico. Anche in questo caso tutto è proporzionale al livello di sicurezza di cui io ho bisogno. Quindi chiaramente, se sono una grande azienda che magari è quotata in borsa, il top management deve parlare di piani finanziari, nuovi prodotti, strategie e quant'altro, probabilmente o magari un concorrente potrebbe mettere in campo le risorse necessarie per poter fare un'intercettazione di questo secondo tipo. Fermo restando che quella di primo tipo è molto molto più semplice. Certo, però mi dicevi prima che questa seconda modalità non costa centinaia di migliaia di euro. No, si parla di un mercato che propone queste soluzioni a qualche migliaio di dollari al giorno. Sì. Cioè vuol dire che se io sono un'azienda di un certo tipo, per poter sapere piani di un'altra azienda, probabilmente sono disposto a spendere 3, 4, 5 mila dollari o euro, insomma, al giorno per poterlo fare. Sì. Senti, voi siete in un mercato molto grande o un mercato di nicchia? Allora, io credo che il nostro mercato sia di nicchia, ma con potenzialità molto molto grandi. Questo dipende dalla percezione del concetto di privacy che le persone hanno o avranno nei prossimi mesi o anni. Ad oggi al mondo che fanno software per criptazione cellulare ci sono, credo, non più di 5-6 aziende. Le tre più importanti siamo noi, insomma, è un'azienda israeliana che si chiama Goldlock e un'azienda inglese che si chiama Sailcrypt. Ci stiamo chiaramente dividendo un mercato soprattutto a livello aziendale e a livello governativo. Ti dicevo che il mercato ha sicuramente delle potenzialità molto grandi, perché nel momento in cui il concetto di privacy personale dovesse diventare preponderante o dovesse assumere un valore molto più alto di quello che c'è adesso, a quel punto potremmo pensare di spingerci sì al mercato professionistico su cui già stiamo lavorando, ma anche verso il mercato consumer. Nel momento in cui riusciremo ad arrivare al mercato consumer, ben capisci, certo, comprendi che chiaro. I numeri sono di tutt'altro tipo. Sì, sì, in questo caso parliamo di un mercato da 1.300.000.000 di telefoni ogni anno venduti, ogni anno, quindi quanti sono poi già disponibili sul mercato, insomma, è un numero difficile da calcolare. Bene, io ringrazio Carlo Marchini per essere stato con noi, amministratore delegato di Camsa Italia. Buon lavoro, a presto. Grazie mille. Questo è 2024, adesso ci fermiamo per qualche minuto. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci: 2024@radio24.it. A tra poco. Di nuovo insieme a 2024, io sono Enrico Pagliarini, seguiteci ogni fine settimana nel pomeriggio del sabato di Radio 24, andiamo in onda tra le 16 e le 17 oppure ci trovate poi online sul sito internet www.radio24.it. E come sempre vi consiglio di utilizzare il servizio podcast. In questo modo avete la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, quindi riascoltarci quando volete, ma soprattutto anche a pezzetti, magari 10 minuti al giorno. Il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile poco dopo la messa in onda, quindi entro al massimo le 18.30 del sabato. Parliamo del settore dei trasporti, ce ne occupiamo ogni tanto, un settore dove le tecnologie digitali, l'informatica e le comunicazioni hanno cambiato o stanno cambiando in modo netto sia la gestione del sistema di trasporto in sé, sia il modo con cui gli utenti usano i trasporti. Pensate ad esempio ad una delle grandi rivoluzioni, se guardiamo al settore aereo, al check-in online, al mobile check-in. Insomma, potremmo fare una lunga lista. Le cose cambiano anche in un sistema locale e oggi vogliamo parlarne con Roberto Andreoli, che è responsabile delle tecnologie, dice il suo biglietto da visita, dei sistemi informativi e telecomunicazioni per ATM Milano. Benvenuto a 2024, Andreoli. Grazie. Noi oggi, vi dicevo, vorremmo parlare di tecnologia, di come la tecnologia può cambiare anche il modo, ad esempio, di fare girare per le strade della città un autobus. Non entreremo, questo è bene specificarlo, perché sono sicuro che poi arriveranno le email di ascoltatori che storcono il naso. Dicevo, non entreremo, non è questo il luogo per parlare in modo più ampio del sistema dei trasporti pubblici, della scarsa attenzione che in generale in Italia viene riservata per il trasporto collettivo. Queste sono responsabilità politiche, ci sono molto chiare, ma non di questo parliamo a 2024. fatto ci occupiamo di tecnologia e sicuramente il caso di ATM è interessante per l'uso massiccio che fa della tecnologia che sta facendo negli ultimi tempi e sicuramente anche in prospettiva, viste le cose che succederanno all'interno della città di Milano. Andreoli, diciamo due cose. Voi sul sistema dei trasporti, voi gestite una serie di linee metropolitane che al momento sono tre, autobus in giro per la città, tram, eccetera, insomma un sistema sicuramente complicato da gestire. Beh, in più abbiamo i filobus, se vogliamo entrare nel campo, diciamo, per specificare un po'. Abbiamo anche in gestione la metropolitana di Copenaghen come azienda, e più insomma sul territorio milanese ci estendiamo fino a Monza, piuttosto che l'asse della Nord-Est Trasporti, che è sempre di gestione di ATM. E quella della metropolitana di Copenaghen forse non lo sanno nemmeno i milanesi, diciamo così. No. Senta, voi anche perché a Milano ci sarà l'Expo, ma non solo per questo motivo, state già da tempo utilizzando sistemi tecnologicamente avanzati che uno forse non penserebbe venissero usati in un sistema come quello di un trasporto di una città come Milano, una città non gigantesca, insomma comunque una grande città. Dicevo, l'Expo sicuramente è una spinta anche per offrire una serie di servizi ai clienti. Partiamo dall'infrastruttura per capire, per gestire una rete di trasporto così complessa, che cosa c'è dietro e soprattutto quanto interconnessi sono i vari mezzi che circolano, addirittura anche gli autisti. Sì, l'argomento è molto importante per un'azienda come la nostra. È chiaro che stiamo andando verso una Milano sempre più digitale, se vogliamo, e il salto che farà verso l'Expo 2015 sarà decisamente molto importante. La nostra azienda in questo periodo qua sta facendo negli ultimi anni un salto tecnologico veramente, veramente significativo. I nostri autobus, giusto per chiarire, non sono più forse degli autobus, ma sono in realtà dei computer sulle ruote, mettiamola così, uso un po' questo termine, perché la tecnologia a bordo del bus è nascosta dal punto di vista del cliente, però in realtà è molto importante per dare un servizio alla fine al cliente stesso. Pensiamo che tutti gli autobus sono tracciati, quindi hanno a bordo questo sistema, un sistema VM che si chiama Automatic Vehicle Monitoring, che è un sistema basato sulla localizzazione GPS che dà le informazioni alla nostra sala operativa di superficie e della metropolitana sulla posizione in tempo reale di tutti i veicoli. Il nostro autobus è l'ultimo anello della catena, cioè nel senso che è l'ultimo anello ed è quello più importante che trasmette l'informazione al centro. Questo perché? Perché il bus trasmette l'informazione al centro, il centro a sua volta elabora tutte le informazioni e le restituisce al cliente sotto forma di tempo d'attesa alle paline, piuttosto che deviazioni di percorso, piuttosto che tutti gli eventi legati, diciamo, alla tecnologia di bordo. Oltre a quello, il sistema, oltre a comunicare al centro la posizione in tempo reale, quindi tutte queste cose, ci permette di comunicare in tempo reale con l'autista e quindi capire che cosa sta succedendo a bordo, se il bus è in ritardo o in anticipo rispetto alla tabella programmata. Quindi lo sforzo, diciamo, nonostante una città come la nostra sia molto complicata dal punto di vista del traffico, ci sforziamo per fare in modo che il rispetto della frequenza, quella che noi usiamo come metro di misura per misurare la bontà sul cliente, e rispetto alla frequenza dell'arrivo, del tempo del bus alla fermata, è una cosa molto complicata. Quindi i nostri operatori di sala operativa cercano tutto il giorno, quindi 24 ore su 24, di allontanare i bus, quindi di gestirli sempre meglio per dare una continuità molto maggiore sul cliente. Allontanare i bus significa che se un autobus è in ritardo e l'altro invece è in orario, gli si avvicina, si cerca di gestire la tratta, insomma, degli autobus, la linea, la fila degli autobus. Sì, esattamente. Quello che in realtà non traspare è che la nostra, ripeto, è una città molto complicata, cioè nel senso che il traffico cittadino è quello che ci penalizza molto, quindi basti pensare alla gente che parcheggia magari in doppia fila, in curva o sulle rotaie del tram. Questo per noi è un disastro, è un disastro. Stiamo lavorando... Lei ha fatto l'esempio dell'autobus perché, diciamo, è quello più libero e che è gestito o meglio, forse tutti pensano sia gestito solamente dall'autista, in realtà dietro c'è almeno un operatore che lo controlla. Sì, diciamo ce n'è più di uno. C'è un operatore che controlla l'esercizio, cioè quello che succede del bus mentre circola in linea dal punto di vista, diciamo, dell'orario, dell'arrivo alla fermata, dell'arrivo al capolinea, delle partenze, queste cose qua. Più c'è un'altra parte, in realtà è tutta la parte di manutenzione, che riceve dal bus stesso, che a bordo un sistema di diagnostica intelligente, tipo la telemetria della Formula 1 per intenderci, trasmette a terra tutta una serie di informazioni che riguardano la diagnostica, diciamo, puntuale del veicolo, quindi l'andamento delle temperature dell'acqua nel radiatore fino allo stato delle porte piuttosto che lo stato della guida. Questo per far che cosa? Per migliorare in realtà quello che è la gestione del guasto e la gestione della manutenzione predittiva e preventiva del veicolo, in modo che si guasti sempre di meno in linea. Ecco, questo qua è lo scopo fondamentale. Senta, queste comunicazioni come sono gestite? Cioè via rete mobile, rete di telefonia mobile, una rete proprietaria? Ma noi usiamo tutti i canali possibili di telecomunicazione. In realtà dal bordo del bus a terra noi andiamo via canale, diciamo radio digitale, si chiama Tetra, quindi è un canale, sì, è un sistema utilizzato anche dalle forze dell'ordine. Esattamente, è un sistema sicuro, cioè nel senso che ci permette di comunicare anche quando il telefonino, il GSM è fuori uso per eventi speciali sulla città, ecco, mettiamolo così. Noi usiamo quello come canale principale di comunicazione con la nostra flotta e usiamo anche il GSM come backup, quindi se vogliamo, i canali GSM, GPRS, OMTS, HSDPA, insomma i classici canali di comunicazione. Usiamo un po' tutto, ecco. Le faccio ripetere una cosa perché alcuni ascoltatori, soprattutto che utilizzano magari mezzi ATM, diranno: ma tanta tecnologia, poi a volte l'orario non è rispettato. Qua torniamo a un problema che è poco gestibile con la tecnologia, o comunque la tecnologia ci aiuta a gestirlo, che è quello che lei diceva prima, cioè una serie di fatti imprevedibili. Diciamo che bisognerebbe avere solo delle metropolitane o dei tram senza passaggio dove passano le automobili. Sì, è proprio un'osservazione corretta, cioè nel senso che gestire un'informazione di tempo di arrivo di un mezzo in corsia preferenziale o di una metropolitana è abbastanza semplice. Come azienda noi abbiamo scelto di dare un'informazione alla palina della fermata che è data dalla posizione reale del veicolo sulla linea, quindi noi proiettiamo la posizione in coordinate GPS con degli algoritmi, diciamo, abbastanza complicati, dando il tempo di arrivo proprio alla fermata, sia sul sito internet, lo diamo anche magari nei prossimi mesi anche con il telefonino, con l'applicazione mobile, ma soprattutto la scelta nostra è stata di dare l'informazione in tempo reale e non quella programmata. Cioè, per intenderci, per spiegare un po' meglio com'è, se io so che il bus deve arrivare alle 10.30 e sono 10.26, potrei mettere 4 minuti all'arrivo. Questo però abbiamo visto che è molto impreciso, cioè è preciso dove si è in corsia, c'è poco traffico, queste cose qua. In alcune città va bene, europee, dove la vivibilità magari è maggiore. Sulla nostra rete cittadina abbiamo scelto questa cosa qua. È chiaro che i gradi di libertà sono tantissimi, perché se il bus è dietro l'angolo e attraversa la persona magari più lentamente, o ripeto, c'è una macchina parcheggiata o il camion parcheggiato in doppia fila e il bus non riesce a girare, il GPS le dice che è lì, è sempre a 300 metri di distanza, però rischio di dirle 3 minuti e magari sono 4 o 5, mettiamola così. Quindi c'è un minimo di tolleranza, giustamente, non è... poi oltre a queste cose qua noi stiamo migliorando sempre di più gli algoritmi di calcolo, facciamo cose statistiche previsionali con modelli complessissimi matematici, però siamo sempre soggetti al traffico cittadino, quindi. Questo è il problema. Tra poco lasceremo gli autobus per parlare di altro, non solo di trasporto in sé, anche di tecnologie che stanno attorno, le telecomunicazioni, come i clienti verranno informati grazie agli smartphone, ad esempio. Questo è 2024, ripartiamo tra un minuto. Stiamo parlando di tecnologia e di trasporti. Sicuramente negli ultimi anni, ma forse ancora di più nei prossimi anni, le cosiddette tecnologie ICT, quindi l'informatica e le telecomunicazioni, cambieranno molto, soprattutto il servizio che verrà erogato al passeggero. Per passeggero intendiamo, insomma, chi utilizza i mezzi di trasporto. In questo caso oggi stiamo parlando di trasporto pubblico cittadino, ma il discorso può essere esteso a tanti altri tipi di trasporto. Abbiamo parlato spesso di aerei perché forse la tecnologia è entrata più velocemente in questo settore, che un tempo era un settore ricco, oggi invece soffre molto. Oggi è con noi Roberto Andreoli di ATM Milano. Senta Andreoli, direi a questo punto possiamo scendere dall'autobus, potremmo dire così, e vorrei chiederle qualche cosa su servizi di telefonia mobile. Questo è un settore di cui parliamo molto spesso a 2024, che è cambiato molto negli ultimi tempi grazie a reti che diventano sempre più capaci di trasferire dati anche a terminali sempre più evoluti, anche da tariffe che mettono a disposizione pacchetti di traffico molto generosi per i consumatori. Ecco, voi in che modo utilizzate questa tecnologia o utilizzerete questa tecnologia? Sì, è un lavoro abbastanza grosso. In realtà il mercato, cioè il mass market della parte mobile, con le nuove tariffe di trasmissione dati che includono anche delle flat, quindi cose che diventano più alla portata del cliente finale che non di qualche tempo fa, ci hanno permesso anche noi di lavorare su questo fronte qua. Sul mobile ci stiamo lavorando molto, usciremo a breve con la nostra parte di Giro Milano Mobile, se vogliamo, sia per l'ambiente Windows che per l'ambiente Apple Store, quindi per la parte iPhone. Se diciamo, per chi non è di Milano e chi non conosce Giro Milano è una mappa interattiva attraverso la quale io su internet posso sapere come fare e che mezzo pubblico utilizzare, magari anche quanto tempo impiego per passare da via Garibaldi a Viale Italia. Sì, che è correlato da un'altra serie di informazioni, quindi oltre ad avere il da A, c'è anche l'informazione di quando arriverà il prossimo bus, ci sarà la possibilità magari di profilarsi per scegliere se uno vuole andare un po' più a piedi, vuole fare, non so, interconnessione con il bike sharing, piuttosto che cose di questo genere qua. Ci stiamo lavorando, quindi stavo dicendo informazioni al tempo di arrivo della prossima fermata, che viene pubblicato anche sul nostro sito internet, ma anche informazioni relativi all'infomobilità milanese, quindi eventi, vorremmo pubblicare magari informazioni sui cantieri stradali, piuttosto che aiutare non solo chi viene con il mezzo pubblico ma anche chi arriva a Milano con l'auto, quindi dare un po' di informazioni interscambiate magari anche con i parcheggi, quindi quanti parcheggi sono disponibili, dove lasciare la macchina al parcheggio più vicino, e quindi magari incentivare anche l'uso del trasporto pubblico, che è molto importante. Quindi queste informazioni, l'obiettivo è fornirle sempre più anche in mobilità, perché forse è il momento in cui ne abbiamo più bisogno. Soprattutto in mobilità, quindi visto che ormai gli smartphone sono alla portata ormai di parecchie persone, quindi di molte persone che ne fanno uso. Quindi. Senta, vorrei parlare anche di una tecnologia di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, poi l'abbiamo quasi data per conosciuta, ma è ancora una tecnologia che ci offrirà delle sorprese interessanti, cioè i chip RFID che voi avete utilizzato già da un po' di tempo negli abbonamenti e anche in qualche altra carta. Allora, diciamo che questa è una tecnologia che permette di inserire una serie di informazioni in un chip, annegare questo chip in una carta, ad esempio simile ad una carta di credito, e voi la utilizzate ad esempio per fare che cosa? Ma la nostra tessera di viaggio, l'itineo si chiama, la nostra tessera, monta un chip a bordo, giustamente, che può essere compatibile con tutta una serie di servizi. Ad oggi quello per cui la utilizziamo sono il classico biglietto ATM, piuttosto che l'abbonamento, piuttosto che vari tipi di abbonamenti che sono caricabili sulla tessera. Diciamo che il vantaggio è che uno passa attraverso i tornelli per entrare in metropolitana, oppure va sull'autobus e va davanti al lettore, esatto, che invece di timbrare il biglietto passa tranquillamente, lo avvicina e di fatto la convalidatrice riconosce a distanza di circa 5 cm il fatto che uno ha un abbonamento valido di viaggio. Tra l'altro, di ultimo avvio di qualche mese fa, ci sono i tornelli Fastway, ad esempio, cioè quelli che ad esempio la stazione di Cadorna le consentono, se lei ha una tessera elettronica, di scendere e varcare l'ingresso con più facilità ma anche più rapidità, perché la lettura di una tessera rispetto a un biglietto che va obliterato, il tempo è molto minore. Per chi ha fretta, come una città come la nostra, come Milano, di chi scende dal treno, passa dai tornelli velocemente perché deve andare in ufficio, deve tornare a casa, e qualche secondo è sempre importante, quindi... La utilizzerete anche in altri ambiti? Sì, diciamo che l'intenzione dell'azienda è quella di dare sul territorio milanese, se ne parla sempre di fare una tessera unica integrata dove faccio micropagamenti, ci pago anche il giornale, ci pago anche il caffè. Diciamo che la difficoltà non è molto tecnologica, è mettere d'accordo tutti gli operatori, inclusi quelli bancari, per far modo che ci sia una corretta ripartizione degli introiti. Ecco, sì, diciamo che spesso la difficoltà non è tecnologica, ma è proprio come diceva lei, mettere d'accordo i soggetti. Io so che state lavorando e probabilmente insomma ci sarà un'evoluzione anche in questo ambito per integrare una tecnologia come l'RFID e il telefonino o lo smartphone. Sì, assolutamente sì, si chiama NFC, quindi Near Field Communication, in realtà il termine corretto è questo, dove ci sono alcuni modelli di telefono, ancora pochi sul mercato, ma saranno di divulgazione perché anche altri stati nel mondo si stanno avvicinando a questo tipo di tecnologia, che le consentono direttamente con il telefonino di poter appoggiarlo, diciamo, sul tornello nostro, la metropolitana, e poter passare direttamente. Questo le dà tutta una serie di vantaggi, quindi vuol dire che lei può caricare l'abbonamento direttamente sul telefonino tramite un'applicazione che sta su smartphone piuttosto che su Windows Mobile. Ci consentirà di fare alcune cose di questo genere qua, oltre a tutta una serie di altri servizi che sono micropagamenti, non so, per i musei, però se ne parla giustamente in futuro. È una cosa che stiamo sperimentando quindi da un po' di tempo, è una tecnologia di cui bisogna essere veramente sicuri di quello che si fa, quindi protocolli di crittografia, quindi alcune cose di sicurezza. Insomma, ci stiamo lavorando, sarà un oggetto dei prossimi mesi sicuramente. Bene, io ringrazio Roberto Anderoli per essere stato con noi. Buon lavoro, visto che insomma immagino che il lavoro non manchi. A presto. Grazie mille. Adesso cambiamo argomento, parliamo di telefonia mobile, di servizi in mobilità. La scorsa settimana Microsoft ha lanciato, al momento per le sole aziende, la nuova versione di Office, la 2010. All'interno del pacchetto software, del pacchetto da ufficio più diffuso al mondo, c'è un'applicazione chiamata Microsoft Communicator, che serve per gestire tutte le comunicazioni, dalle telefonate alla posta elettronica ai sistemi di messaggistica in tempo reale. Bene, in questo servizio, di questo servizio esiste anche una versione per smartphone, una versione mobile, direbbero gli esperti, che verrà installata sulla serie business dei telefoni Nokia, quelli della serie E, dove E sta per Enterprise. L'accordo è sicuramente utile, dovrebbe essere utile per Microsoft, che finora non è riuscita a replicare nel settore mobile la vasta base installata che invece ha a livello di PC. Pensate, Office insomma è uno dei pacchetti più diffusi al mondo. In attesa di vedere come funziona Windows Mobile numero 7, beh, finora Microsoft non ha certo raccolto grandi successi nel mercato degli smartphone. Ma l'accordo dovrebbe essere utile anche per Nokia, perché finora l'azienda finlandese nel segmento business, soprattutto in quella fascia d'aziende che fanno un massiccio uso di voce e di email in movimento, insomma Nokia deve vedersela con il successo di BlackBerry, che offre una soluzione molto apprezzata dai responsabili delle tecnologie delle aziende. Ma che cos'è nel dettaglio questo nuovo servizio? Sentiamo Valerio Tavazzi di Nokia Italia. Un dispositivo, un'applicazione che è installata sul telefono cellulare permette all'utente di identificare la disponibilità ad essere contattato dai propri colleghi e di contattarli in maniera conseguente, nel senso che di scegliere se contattarli telefonicamente via instant messaging, via sms o via posta elettronica, nella stessa identica modalità con il quale l'applicazione funziona quando installata su un computer, su un desktop. Possiamo dire, c'è chi dice che è la creazione di un secondo polo in concorrenza con BlackBerry. Assolutamente sì, l'intento è quello, e il polo e la collaborazione con Microsoft non si fermerà qua, perché già ad oggi c'è una roadmap di ulteriori prodotti. Il primo prodotto che verrà è quello della versione per mobile, quindi per dispositivo mobile, della suite Office di Microsoft. Il secondo prodotto che verrà assolutamente fondamentale in ottica enterprise è la possibilità con Microsoft System Center di gestire il telefono cellulare nella stessa modalità con cui si gestisce un apparato dell'infrastruttura IT dell'azienda. Di email in mobilità si parla ormai da molti anni. Voi pensate che ci sia ancora un grande mercato? Si stima che l'anno prossimo ci sarà circa 1 miliardo di persone che avranno bisogno di utilizzare le applicazioni di professionali in mobilità, e circa 600 milioni di queste dovranno farlo da un telefono cellulare. Oggi sicuramente l'offerta e la base installata è lungi dall'aver coperto questi numeri. In ogni caso, noi possiamo vantare già un installato di Mail for Exchange, che è l'applicativo di accesso al server Exchange di Microsoft, di circa 80 milioni di utenze. In tutto il mondo. In tutto il mondo. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, e grazie anche a tutti coloro che scaricano settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione, che sarà disponibile tra poco sul nostro sito internet. Per questo ringraziamo i nostri tecnici. Cliccate su www.radio24.it nella sezione podcast. Bene, grazie anche ad Anita Panizza per l'assistenza in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 16 e le 17. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.